Tempo di Sport con Carlo Genta. Ci ascoltatori, buonasera a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia e oggi ancora su questi schermi Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati. Oggi parleremo naturalmente di rugby e cronaca. Abbiamo appena finito di vedere questa partita con l'Australia, è stata sconfitta anche pesante in termini di punteggio alla fine per una mente un po' stupida presa negli ultimi secondi che ha arrotondato il punteggio a favore degli australiani. Finisce 32-14 per i nostri avversari a Firenze, stadio, ma questa non è quasi neanche più una notizia, stadio pieno, manco fosse la Fiorentina, anzi più della Fiorentina in certe partite, tanta gente, una buona nazionale nel primo tempo, secondo tempo magari un po' meno nonostante la meta segnata. Chiaro che guardando oggi pomeriggio la nazionale azzurra più multietnica che c'è, mi è tornato in mente, magari anche a qualcuno o a molti di voi, quello striscione issato a Klagenfurt da alcuni nostri concittadini: no alla nazionale multiraziale. Anche di questo ci toccherà parlare, lo faremo volentieri con voi, lo faremmo volentieri con voi. 800 24 00 24, il numero verde. Poi con Andrea Zorzi racconteremo anche una storia bellissima che attraverso la quale riusciremo a capire perché la scherma italiana che ci regala così tante medaglie non è nata in Italia ma all'estero. Distante. Dove nessuno penserebbe. Dove problemi gravissimi li hanno avuti sul serio, al di là della stupidità da esportazione, no? Qualche anno fa, e forse si è persa un'occasione, perché visto che, sveliamolo, il Sudafrica è il luogo nel quale sono giocati i mondiali di calcio, non ricordo tante occasioni in cui si fosse parlato di un altro sport, che effettivamente la scherma italiana, che è la disciplina più medagliata nella storia, è nata in Sudafrica. Quindi state con voi che poi vi raccontiamo questa storia. Giacomo Bagnasco da Firenze, buonasera. Buonasera Carlo, è nata in Sudafrica, sì, Sudafrica patria del rugby, no? Credo che Andrea voglia parlare del maestro Tricoli di Iesi, ma non voglio rubargli spazio. Noi siamo esattamente così. Noi siamo al Franchi a commentare questo 32-14 per l'Australia, primo tempo 13-6, una partita strana direi Carlo, perché si è visto nel primo tempo molta presunzione da parte dei nostri avversari, un'Italia che ha cercato di giocare secondo le sue possibilità, un'Italia pronta al sacrificio in difesa e buona in mischia chiusa, dove tutto il tempo gli azzurri hanno messo in difficoltà gli australiani che però hanno avuto moltissime palle a disposizione, hanno voluto sempre al largo, esagerando, non cercando punti d'incontro, in questo modo sprecando occasioni in altre circostanze, venendo fermati dalla nostra difesa. Una bella meta australiana con Mitchell al 14° del primo tempo, ma poi l'Australia per più di 30 minuti non ha segnato, noi ci siamo fatti sotto, il finale del primo 13-6 per gli Wallabies era un mezzo miracolo, loro hanno avuto tanti palloni, noi abbiamo difeso bene e segnato con Bergamasco e Orchera quando ce n'è stata l'occasione. A proposito di Orchera, con Gori che esordiva e che ha fornito una prova positiva, si può dire che questa mediana ha messo in campo più vivacità. Nella ripresa però un'Australia più concreta ha sfruttato tutti i calci a disposizione, c'è da dire che Barnes, che sarebbe il terzo calciatore australiano, ha messo tra i pali la palla 8 volte su 9, la supremazia territoriale degli ospiti è stata così esaltata da questi calci, gli azzurri hanno continuato a difendere, hanno segnato a loro volta una bella meta, una meta importante al 32°, con Barbieri, azione da mischia chiusa, un pallone su cui una partenza di Parisse che veniva bloccato, la palla veniva poi ripresa da Barbieri che andava in meta. A questo punto poteva andare abbastanza bene così, era un 25-14 che perlomeno era un risultato che rispecchiava quello che si era visto in campo, c'è stata quella meta stupida, come giustamente l'hai definita tu Carlo, proprio alla fine della partita, una mischia su introduzione nostra, un pallone che è uscito dalla parte sbagliata con Elsom che è andato a segnare, Bams neanche a dirlo ha messo tra i pali. Diciamo che gli azzurri hanno perso 2 partite su 2, quindi sì, il bilancio è sicuramente negativo, avevano giocato peggio sabato scorso con l'Argentina quando oltretutto avevano avuto più palloni a disposizione, avevano perso 22-16 in due partite. Delle mete, questo potrebbe essere un piccolo punto positivo, non è certo terribile, due mete segnate dall'Italia, tre mete segnate dai nostri avversari, ma certo è arrivata un'altra sconfitta e l'ultima partita del trittico che si giocherà fra sette giorni con le isole Figi non si presenta poi così agevole, se si pensa che la squadra del Sud Pacifico ieri sera ha pareggiato 16-16 in casa del Galles. Sì, anche quella sarà una partita da giocare, infatti è molto meno scontata di quanto ci hanno raccontato, insomma. Grazie Giacomo, buon lavoro. Grazie a voi. Andrea. Avrei rivolto a Giacomo. Giacomo, c'è ancora? C'è ancora Giacomo Bagnà? No, adesso aspetta che lo chiamiamo così. Gli avrei rivolto la solita... Adesso lo richiamiamo così. La solita domanda, nel senso che ormai l'Italia da qualche anno del rugby conferma di essere molto solida in difesa, molto, molto brava. Però la domanda era se ci sono miglioramenti in quella che pare essere... Non facciamo gol. Hai visto su tutti i giornali, c'è questa... Tra l'altro è una statistica non freschissima, però insomma, è un dato di fatto... partendo dal campionato di calcio, che poi la fotografia un po' di molte cose di tutto il movimento, è il campionato in cui si segna meno, salvo la Grecia, in Europa. Questo non so se sia indice di qualità delle difese o di cos'altro, però è un dato di fatto. È vero che anche nel calcio per anni l'Italia ha ottenuto grandi risultati con un buon catenaccio, sì. E però in questo caso se non si gioca mai alla mano, infatti questa era un po' la domanda. Guarda che c'è Giacomo. Sì, ci sono. Non facciamo gol, voleva chiedere. La domanda no, non facciamo gol, non li facciamo segnare, per dire la verità, neanche agli altri. Però torno a dire, stavolta abbiamo qualche attenuante in più perché abbiamo avuto meno palloni a disposizione. Quindi, indubbiamente rimane un problema in queste circostanze, in queste partite, contro avversari più forti di noi, perché l'abbiamo detto tante volte, l'Italia del rugby, per una questione anche di organizzazione internazionale, forse discutibile, sempre in sostanza avversari più forti di lei. Quando si hanno delle occasioni poche, quelle pochissime, bisognerebbe cercare di sfruttarle. C'è stata una bellissima azione nel secondo tempo con un bel movimento di tutta la mischia, poi la palla che è viaggiata velocemente da Orchera ed è arrivata fino a McLean, un passaggio sbagliato di McLean a Benvenuti ha vanificato questa occasione. Però voi che non intendete, avete l'impressione che in allenamento si lavori nel migliorare questa fase di trattamento della palla, oppure stiamo lavorando sui punti di forza che sono la difesa? No, io credo che quella ci sia, credo che poi ci sia una questione un po' di qualità individuale e un po' di organizzazione che comunque non è all'altezza di quella delle grandi squadre, quindi sono le due cose. Non credo, ecco, che sul gioco delle parti non si lavori, sulla qualità di questo lavoro si può discutere e se vogliamo dirla tutta, c'erano dei momenti in cui sembrava che a seconda di quando la palla era nelle mani degli australiani, quando era nelle mani degli italiani, la palla pesasse di più o di meno, era decisamente più leggera quando la facevano circolare gli australiani, perché sapevano, che sapevano, si facevano trovare in due o tre al sostegno, oltretutto certo, sapevano cosa farne di quel pallone a differenza dei tre quarti italiani, perché insomma ci manca Inzaghi in nazionale, anche nella nazionale di rugby. Soltanto che appunto è più facile, forse, tanto è italiano, non c'è neanche problema di passaporto, è più facile nel calcio avere un giocatore certo, così, un giocatore di punta, un giocatore di grande istinto. Nel rugby c'è poi un fattore organizzazione che è sicuramente più importante, questo è uno dei motivi per cui ben difficilmente certo, stiamo banalizzando. Grazie Giacomo, grazie a voi. Non so quanto tu sia soddisfatto, Andrea. No, sono soddisfatto. Sai, anche la pallavolo, se puoi difendere bene, però se la palla non la metti per terra è difficile. Però infatti questo è uno dei concetti più importanti, nel senso che è vero che non tutti possono avere il talento che hanno i brasiliani del volley nell'attaccare con dei colpi meravigliosi, con una velocità. È però vero che tu devi raggiungere un livello minimo di rendimento in attacco, perché se no non fai punto. Dopodiché, se il tuo attacco non è il livello degli altri, difendendo moltissimo, con buone motivazioni, con buon muro, mettendoci 150 volte più energia degli altri, puoi pareggiare. Ma sotto un certo livello di attacco non si vince. Sì, sì, no, soprattutto. Poi non si può vincere perché gli attaccanti non sono facili da trovare. È più facile trovare magari un buon difensore. Si parlava anche nel calcio, si parlava di ruoli dove il talento è meno dominante, perché la fisicità potrebbe essere sufficiente a diventare un buon giocatore. Però in questo caso, visto che parliamo ormai di un periodo abbastanza lungo della nazionale di rugby italiana, la domanda era proprio in questo percorso cosa sta avvenendo, stiamo andando in quella direzione, quali sono i risultati? Questi. Attualmente questi. 800 24 00 24, numero verde, ho già diversi messaggi, 349 238 6666. Come questo, il rugby è un bel esempio di marketing, una nazionale che non vince mai riempie gli stadi, anche questo è un tema che tocchiamo quasi tutte le volte, però è un dato di fatto, è più gente per la nazionale di rugby che tanto non ha la possibilità di vincere questa partita rispetto alla Fiorentina, anche quella di quando era più in alto in classifica. Questo lo dico da pallavolista, da amante degli sport minori, nei quali considero il rugby uno dei nostri, anche se è un grande successo, sì. Attenzione, perché questa operazione anche di marketing potrebbe ritorcersi contro. Sì, poi mi spieghi perché, dopo il traffico, eh? Tanto altri messaggi, mentre adesso Andrea Zozzi completa il suo discorso, altri messaggi come questo: ma perché sempre tanta condiscendenza con l'Ital Rugby, non si vince mai nulla, ma gli altri sono sempre più forti, non è che siamo sempre noi i più deboli delle grandi? Beh, ma è così e il campo lo dimostra, l'abbiamo sempre detto, e non è un mistero, né una cosa da nascondere, né una cosa tantomeno da negare. Oppure quest'altro messaggio: non è uno sport per italiani. Non è uno sport per italiani, gli stranieri che abbiamo in nazionale sono degli scarti degli altri. Non dite di no, quindi non ci offre neanche possibilità di replica. Non dite di no, no. Però è vero che con nazionali così forti come quelle dell'emisfero australe, uno se arriva a giocare in Italia è perché non ha avuto la possibilità di praticare in quella nazionale. Il concetto del fatto che possa ritorcersi contro è proprio il fatto che, se dovesse passare il concetto che uno sport che è amato perché è vero, perché è spontaneo, perché è sincero e anche frutto di marketing, questo potrebbe diventare una sorta di sfiducia o di richiesta di pagare in contanti. Allora, il che non significa che se l'Italia non vince non dobbiamo considerarlo. Il pubblico che va al Franchi, che va al Bentegodi e che lo riempie è un grande successo. L'importante è che non ci sia la condiscendenza e la sensazione che i giornalisti e tutti quelli che stanno intorno stiano difendendo un'operazione che ha a che fare anche col marketing. Sì. Se no, tradirebbe più degli altri il fatto che il rugby si presenta per essere lo sport vero, pieno di valori. Non è che una volta tanto in casi come questo si vada allo stadio a vedere uno spettacolo, cosa cui noi italiani non siamo assuefatti, no? È un concetto lontanissimo per noi, però magari potrebbe essere credibile. Attenimi da questo punto di vista. Ok, la mia nazionale perde, però vado lì, vedo un grande spettacolo di sport, qualcosa che mi capita molto raramente di vedere, che partite di livello internazionale di questo tipo ce ne sono un paio l'anno, poi c'è 6 nazioni naturalmente, quindi 5-6 l'anno sparse per l'Italia. È un bello spettacolo, oggi, a prescindere dal fatto che poi vado e non vinco, insomma. Oggi i commentatori avevano evidenziato in modo positivo il fatto che durante il time out, l'intervallo, sì, i giocatori uscivano in mezzo a due ali di pubblico senza nessuna transenne, e questo è un fatto positivo. Però attenzione, è un fatto positivo e nuovo rispetto al mondo del calcio. Sì. Poi ricordiamoci che in tutti gli altri palazzetti in realtà le transenne non ci sono, la gente passa in mezzo, e questo era per ricomporre un po' l'idea del panorama sportivo italiano. Sì. Dopodiché, ma al di là del clima, non trovi che dal punto di vista spettacolare possa essere comunque uno spettacolo attraente a prescindere dal fatto che tu sai già che non vinci? Non c'è dubbio, a patto che vengano evidenziate nel giusta misura anche il fatto che è un fatto sportivo che deve essere valutato per quello che avviene in campo. Dopodiché, il fatto che sia uno spettacolo meraviglioso, il terzo tempo, la gente va a divertirsi, questo è sicuramente uno dei grandi successi del rugby, ma non dobbiamo nascondere oppure spostare l'attenzione sul fatto che il rugby va bene a prescindere, perché lo stadio è pieno e perché la gente si diverte, che è una bella cosa. Poi c'è non possiamo sportivo nasconderci, come dicono anche molti messaggi. 800 24 00 24, vi faccio sentire anche un paio di voci su questa partita, e poi passiamo da Firenze al Sudafrica, come anticipato prima, e poi passeremo dal Sudafrica a Klagenfurt, questa è ancora un'altra storia, poi da Klagenfurt torneremo sui campi di casa nostra, perché c'è sempre di viaggi, sempre di viaggi, piace così, moltissimo, sei sempre in giro. 800 24 00 24, se magari siete in viaggio volete venirci a trovare, anche perché tu dici che stai sempre qui e allora ti porto in viaggio io sempre, ci sono le prove audio. Sergio Parisse, capitano della nostra nazionale. Sicuramente la nostra mischia ci ha rimesso in partita, perché siamo riusciti a mettere sotto pressione, a recuperare dei calci punizione e arrivare vicini a loro. Poi abbiamo segnato una meta alla fine. Peccato l'ultima meta che regaliamo, ma sono veramente soddisfatto di questa partita, e adesso ci tocca un'altra settimana dura per giocare contro le fisiche, che hanno fatto molto bene contro il Galles, e quindi sarà una vera battaglia. Questo Parisse, che era stato molto critico dopo la pessima partita contro l'Argentina, vi ricorderete, si era autoaccusato di quella, assunto grandi responsabilità su quella partita, su quella sconfitta, e adesso lo sentiamo un po' più ottimista. C'era un debuttante toscano oggi con una mossa, permettetemi, molto calcistica. Nick Mallet, il nostro CT, ha schierato molti toscani in questa nazionale che giocava a Firenze. Uno di questi era Edoardo Gori. È fantastico, è un sogno che si davvera, veramente. È stata una giornata bellissima. C'è un po' d'amarezza perché abbiamo preso la strada finale, abbiamo perso, e sicuramente potevamo fare di più, però è stato veramente fantastico. È un po' furbetta la mossa di Mallet, eh? Ha messo tutti i toscani, Gori, Derbyshire, gente di lì, no? Però mi sa che il rugby ha un pubblico molto italiano. Sì. Lì ovviamente la Toscana avrà partecipato, però mi sembra che sia un fenomeno molto italiano in cui poterti fare per un conterraneo può essere utile, però. Ma secondo te quelli che hanno messo lo striscione nella nazionale multiraziale l'hanno guardato o no? O non gliene frega niente? No, io non so, io devo dire che quello è un tema sul quale veramente non so neanche come iniziare a parlare. Infatti sono preoccupatissimo del passaggio da Klagenfurt. Bravo. E tra l'altro passiamo da Sudafrica, che è un altro paese che per quanto riguarda che qualche problema ce l'ha avuto. Esatto, però sono rimasto impressionato da quella banalissima frase che Balotelli ha detto in settimana: gli stessi che hanno scritto lo striscione, se mi avessero incontrato per strada avrebbero chiesto l'autografo. Ma io ci credo, ecco. Assolutamente così. Quindi non ha detto niente di campato per aria. Prima di andare in Sudafrica, Raffaele da Verona, quindi un salto anche a Verona. Buongiorno, anzi buonasera. Buongiorno. Ormai qui c'è buio dalle 3 del pomeriggio, quindi. Buonasera, volevo fare prima di tutto i complimenti a Balotelli. Sì. E dopo torno sull'argomento, nel senso che per me Balotelli è l'emblema oggi della nuova integrazione che l'Italia deve avere. Sì. Perché sennò è inutile star qua a parlare di altre cose finché non riusciamo a accettare. Va bene, no. Volevo parlare del rugby. Sì. Più che altro. Dica. Un bacione a Mario, però. Sì. Poi? Allora, sul rugby voglio dire che io sono andato a Verona a vedere la partita con la famiglia, sì. Due bambine, 10 anni, la moglie, e questo è tutto. Cosa che io non posso fare per andare a vedere o il Verona, forse il Chievo sì, ma già il Verona è meglio evitare. Diventa più complicato. È qua la differenza, secondo me. Beh, cioè, ma io sono andato lì, ho vissuto una festa enorme. Certo, no, ma eravamo tutti uniti. Su questo non ci piove, lo stavamo dicendo anche noi prima. Questo è un aspetto. Poi c'è, a parte il fatto che andare a vedere il calcio è un lavorone oggi, no? Tra tessere tifoso, biglietto nominale, code ai tornelli, ai botteghini, eccetera, eccetera, molti soldi quelli che costa andare a vedere una partita di calcio, è un lavorone. Questo è un aspetto ed è indiscutibile. C'è poi l'altro aspetto secondo il quale bisogna mettere giù il pallone, no? Andrea Zorzi, il pallone non lo mettiamo giù raramente. Anzi, lo mettiamo giù mai con la nazionale di rugby. No, ma però trovo interessante il fatto che la ragione per andare allo stadio sia andare a vedere uno spettacolo sportivo. Ci sta bene, non si corre il rischio, si va con la famiglia ed è perfetto. Sì, vai quasi se da tifoso neutrale. Bravo. Se c'è quindi un bisogno così forte di partecipare a un evento collettivo in cui non rischi di farti male, e come vedere uno spettacolo sportivo, mi sembra un grande messaggio di cultura sportiva in Italia, che non è però confortato da tutti i numeri. Perché al di là del rugby, che è diventato uno spettacolo collettivo grazie anche a un'operazione meravigliosa di promozione e di marketing, in realtà non mi pare che ci siano così tante persone che vogliono riempire tutti i palazzetti di qualunque sport. Sì, sì. Allora l'idea è, immagino che il rugby sia un bello spettacolo da vedere, è uno spettacolo qualche volta sì, qualche volta no, ma attenzione che la voglia di andare a San Siro per gli All Blacks a vedere l'Italia è legato anche a un bisogno che viene creato da parte dei media. fortunatamente rimane la parte bellissima che lì non si rischia di essere picchiati, che non c'è problema e che si partecipa a un bellissimo evento, ma non dimentichiamo qual è. Che è un evento sportivo, non è un concerto. Esattamente. Senti, adesso mi vuoi spiegare come ha fatto la scherma italiana a nascere in Sudafrica? Ma guarda, io partirei se hai voglia, sì, per far raccontare da chi sa leggere bene quali sono queste righe che raccontano una realtà secondo me inimmaginabile. Allora sentiamola. Zonder Water, che in Afrikaans significa senza acqua, è stato il più grande campo di concentramento per prigionieri italiani di tutta la Seconda Guerra Mondiale. In quel luogo, posto su un altopiano a 43 km da Pretoria, 108.885 soldati italiani furono rinchiusi fra l'aprile del 1941 e il gennaio del 1947. Il vecchio colonnello boero, Hendrik Prinsloo, veterano della Grande Guerra e richiamato in servizio per dirigere il campo, seppe unire alla disciplina militare un inconsueto e straordinario rispetto per i prigionieri. Insieme agli italiani trasformò una tendopoli grande come una città in qualcosa di incredibile. 2 ospedali, 22 teatri con le rispettive orchestre, 39 chilometri di strade, 14 rioni, 15 scuole, 16 campi di calcio, 6 di tennis, 7 sale di scherma, palestre e ring per la box, campi di pallacanestro e pallavolo, orti, laboratori artistici e artigiani, chiese. Scoprire che durante quella lunga prigionia venne comunque organizzata una vita sociale fatta di sport, teatro, istruzione e altro è sbalorditivo. A Zonder Water furono rinchiusi Ezio Triccoli, il famoso maestro di scherma di tanti campioni italiani che proprio lì scoprì il suo talento con la spada e fioretto, oppure giocatori di calcio come Giovanni Vaglietti e Araldo Caprilli, o pugili come Giovanni Manca e Gino Verdinelli, protagonisti a Zonder Water di un incredibile incontro sul ring proprio l'8 settembre del 1943, data dell'armistizio. Questa storia è raccontata nei dettagli da Carlo Annese, giornalista della Gazzetta dello Sport, nelle 303 pagine de I diavoli di Zonder Water, 303 pagine che pulsano di amore per la vita. L'autore di questa scheda è proprio Andrea Zorzi. Non so quanti conoscessero onestamente questa storia. Poi Triccoli ha portato questa esperienza, perché non è neanche questo insegnamento, questa esperienza tutta compresa a Iesi. Sì, lui quando è tornato nel 47 ha iniziato, non c'era più lavoro, non faceva più lavoro di prima, a formare questa squadra. In realtà poi, schermisticamente parlando, lui ha portato alcune innovazioni che erano considerate delle eresie. Qui ripeto cose che mi hanno detto durante il viaggio di quest'estate Stefano Cerioni, allenatore della squadra di fioretto maschile e femminile, proprio alcuni tipi di scorciatoie di lavoro con impulso che erano considerate inimmaginabili ma che hanno cambiato la faccia della scherma. Ciò che mi ha colpito molto era proprio questo passaggio. Primo Iesi, che è la città che gli dirà dall'84, quindi da Los Angeles fino a Pechino, un atleta di quel club ha sempre vinto una medaglia in tutte le Olimpiadi. Iesi, sapete, è un paesino piccolino, sì, molto orgoglioso, vicino ad Ancona, però è straordinario il fatto che l'inizio fosse in un campo di concentramento. A proposito, lì Sudafrica, perché si trattava di prigionieri della campagna africana che gli inglesi quindi avevano spostato in Sudafrica. Però l'idea di pensare che quello che era un campo di concentramento fosse diventato il luogo nel quale sono nate queste straordinarie avventure mi è sembrato veramente meraviglioso. Nell'ambito sportivo lo si conosce abbastanza, però credo sia l'occasione per riparlarne, perché sicuro. Comunque, senti, prima di fermarci un attimo, Andrea, racconti anche ai nostri ascoltatori quello che ti ha detto Stefano Cerioni. Dunque, su questo passaggio di testimone tra Triccoli e lui. Allora, Triccoli, diciamo che stava benissimo, era in perfetta salute. Ha tentato 1000 volte di convincere Stefano Cerioni a diventare il prossimo maestro della scuola di Iesi. E Stefano ha detto no, non c'ho voglia, non voglio farlo, voglio continuare a fare lo schermidore. Una volta lo chiamò in ufficio, credo fosse un sabato, e l'ho tenuto in ufficio, parola di Cerioni, fino a quando non mi ha strappato una mezza promessa. Mezza promessa. Lui è partito qualche ora dopo per andare a Parigi a fare una gara, è tornato lunedì e il maestro Triccoli era morto. Inaspettatamente. A quel punto non ha potuto far altro che mantenere quella mezza promessa. Adesso è lì, insegna a Iesi, è meraviglioso, ha vinto 3 medaglie su 3 con le ragazze a Parigi ed è il più grande allenatore di scherma del mondo. Giampi da Trento scrive: grazie per aver portato Zorzi alla radio. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo qui. Dunque, caro Andrea Zorzi, allora adesso facciamo un salto che ti preoccupa, da Sudafrica passando per Verona, Iese, Maestro Tricoli, adesso ti preoccupa, ma andiamo a Klagenfurt, perché è stato uno dei temi della settimana. A proposito, 800 24 00 24, resta il numero verde. Lo facciamo però parlando di un libro, non di uno striscione, che forse l'EMEI, come sì, dicono a Milano. Decisamente. Libro che ha per titolo, che ha come titolo, Il rumore della stupidità. Bu. Presente, no? Sì. Lo ha scritto Luigi Garlando, penna raffinatissima della Gazzetta dello Sport, che il calcio prova, anzi no, riesce con grande successo a raccontarlo ai più giovani, come sai benissimo. A mio figlio è un grande appassionato delle cipolline. Sì, con questa squadra composta dall'allenatore che è un cuoco, è Luigi Garlando l'autore di questa serie, devo dire molto interessante. Tra l'altro ha fatto cose bellissime anche su Giovanni Falcone. Sì. Quindi insomma, uno scrittore che ha scelto con molta precisione il suo stile, però tocca temi straordinari, in quel caso la lotta alla mafia, in questo caso la lotta alla stupidità col razzismo. Sì. Luigi Garlando, buonasera, ciao Luigi. Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao, grazie. Senti, volevo partire da questa considerazione, sì. Anzi no, partiamo dal libro, raccontacelo tu. Sì, in due parole, il protagonista si chiama Jack ed è un bambino che per una malformazione curiosa deve vivere a testa in giù, quindi camminare sulle mani, fa tutto a testa in giù, va a scuola, si innamora, fa la prima comunione, a parte questo lui si sente assolutamente normale e quindi combatte questa lotta per affermare la sua normalità di sentimenti, di pensieri, eccetera, eccetera, e trova un alleato prezioso proprio in Mario Balotelli, lo conosce per caso. A Balotelli invece rimproverano, come purtroppo sappiamo, di avere la pelle capovolta, nera invece che bianca, ed è il libro, la storia di questa amicizia, ognuno impara dall'altro perché poi la diversità è un modo per arricchirsi, no? E ci sarà insomma un lieto fine con tanti campioni che scendono in campo a sorpresa, tra i quali Totti, Buffon, eccetera, eccetera. E anche Ibrahimovic. O no? E anche Ibrahimovic. E anche Ibrahimovic. Senti, invece la considerazione che ti giro io insieme all'invito agli ascoltatori di leggere questo libro, che è diventato di cronaca, no? in questi giorni, forse può essere il modo migliore per avvicinarci a questo tipo di problema. La considerazione è questa: molte nazionali, nostre nazionali, sono state in alcuni casi fatte grandi, in altre attraversate da giocatori nati all'estero. Mi viene in mente qualche esempio a caso. Beh, Andrea Zorzi è qui, Tai Aguero, sappiamo benissimo quello che ha fatto di recentissimo per la nostra nazionale di pallavolo. Possiamo andare avanti o indietro a Fiona May, possiamo andare indietro ancora di più, possiamo andare a Mosca 80, quelle Olimpiadi boicottate dagli Stati Uniti, in cui la nazionale di basket italiana vinse l'argento con un americano che era Mike Sylvester. Perché nel calcio questo diventa un problema? Non lo so, e purtroppo un po' il calcio anche se lo va a cercare ogni tanto, nel senso che non ammette di avere questi problemi, o meno di avere una parte di tifosi che fomenta queste idee razziste e quasi se ne vergogna, no? Butta la polvere sotto il tappeto. Pensa proprio al caso di Balotelli, no? Tante volte gli dicono ma no, questo non è razzismo, lo insultano perché è antipatico, perché provoca. Ecco, già questo inizio di giustificazione per me è pericolosissima, e quindi la prima cosa da fare è parlarne, come stiamo facendo, come abbiamo fatto, e poi soprattutto non giustificare, perché il razzismo nel calcio c'è. E l'abbiamo visto anche qualche settimana fa a Cagliari, insomma, e tu è l'ultimo dei provocatori, la persona più elegante che ci sia, però hanno dovuto sospendere una partita per dei cori. Ecco, il calcio ha a che fare con questi problemi in curva, poi discorso politico, eccetera, eccetera, e deve riconoscerlo ed è il primo passo per combatterlo. Andrea? Sì, è un tema davvero complicatissimo. Io stento a volte a credere per davvero, poi devo arrendermi di fronte all'evidenza, il fatto che ci sia qualcuno che per davvero può ancora lasciarsi andare a dei bu perché c'è un giocatore di colore. Questo mi stupisce moltissimo. Ho invece la fortissima impressione che tutto ciò che gira intorno al calcio sia sempre una grande opportunità per avere ascolto, per avere pubblicità. Lo diciamo cose scontate. Però effettivamente mi piacerebbe capire fino a che punto coloro che hanno pensato quello striscione idiota di Klagenfurt o altre cose lo fanno perché ritengono che sia una questione in cui credono, perché gli fa comodo pensare di finire sui giornali di loro amici, guarda che sono venuto sul giornale, guarda il mio striscione, queste due cose, che non sono la negazione di un problema che esiste, vanno però messe in relazione, perché il calcio è veramente un luogo che attira qualunque tipo di stupidità e anche di interesse. Sì, è una cassa di risonanza enorme. E poi la nazionale in particolare, insomma, non è un problema solo nostro, no? Abbiamo visto, ricordiamo Marassi, i nazionalisti serbi cosa hanno combinato. Quindi c'è questa idea distorta e perversa che la nazionale sia di per sé poi uno strumento per affermare questo nazionalismo malato. E quando giochiamo in casa è più facile, no? Perché la nazionale raccoglie anche un tifo di famiglie, quindi vengono un po' sommersi. All'estero purtroppo ci stiamo abituando in questi ultimi anni che a seguito della nazionale vanno solo poi questi gruppi, questi estremisti di destra, che quindi espongono queste idee. E un antidoto anche molto banale sarebbe quello, io l'ho anche proposto sul giornale, di che la federazione si impegni a dare un seguito anche normale con delle iniziative, così io portando bambini in trasferta, quello che volete, però dare un seguito normale alla nostra nazionale, perché ogni volta che l'Olanda si muove vediamo queste ondate di gente con i parrucconi arancioni festosi e noi invece dobbiamo portare all'estero solo estremisti che insultano i ragazzi di colore. L'arancione dell'Olanda, il giallo-blu della Svezia, il bianco-rosso della Danimarca, poi gli irlandesi quando si muovono, che come sono festosi, i polacchi nel volley, io ve li porto sempre nel mio campo, però meravigliosi, però davvero una festa, vanno in giro in camper, meraviglioso. I lituani alla pallacanestro, come possiamo stare a fare l'elenco di tutti i paesi, di tutti i paesi europei e non ci siamo noi. Ha ragione Luigi Garlando. Luigi, per chiudere, un'altra cosa, a me piace molto l'atteggiamento di Prandelli, che se ne infischia e considera e spesso chiama tutti quelli eleggibili. Se uno, dal mio punto di vista, se uno è eleggibile per la nazionale italiana, questo discorso naturalmente non riguarda Balotelli, che è italiano esattamente come noi tre, però se uno è eleggibile per la nazionale italiana, a mio parere non deve essere discriminato perché non è nato qui, se ha le carte in regola per giocarci. Sì, io credo che poi Prandelli, ecco, al di là del discorso prettamente sportivo, ha una sensibilità molto spiccata proprio per il tema, anche per il sociale e per questi argomenti. A me piace molto, poi è un allenatore che è cresciuto allenando ragazzi, quindi ha una sensibilità. Io ho parlato con lui anche dopo Klagenfurt, avendo lanciato un po' sul giornale questa idea simbolica di dargli magari per una notte la fascia di capitano, che è un gesto magari anche banale, però insomma il capitano è quello che rappresenta tutti gli 11, la nazionale rappresenta un paese, quindi dare la fascia a Balotelli per una notte vorrebbe dire a queste bestie, perché è giusto chiamarle così, Balotelli è il più italiano di tutti. Ecco, a Prandelli questa idea piace, non so se poi andrà in porto, però c'è bisogno anche, io credo, di gesti simbolici forti per scuotere un po' le coscienze. Grazie Luigi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao ciao. Grazie a Luigi Garlando. Ci fermiamo un attimo, poi Giovanni Battista da Genova e Vincenzo dalla provincia di Milano, due ascoltatori già pronti in linea. Traffico. Nel nostro lungo giro, Genova, Giovanni Battista, buonasera. Buonasera signor Genta, volevo fare un intervento riguardo al rugby. Prego. Io volevo dire che concordo con Andrea Zorzi che il rugby è comunque diventato il fenomeno che è diventato per la grande attenzione che hanno riservato i media ai rugbisti, soprattutto come uomini immagine. E riguardo di questo cito i calendari o il fatto che comunque molti rugbisti siano diventati testimonial di questo o quell'altro. Sì. Però alla lungo, quello che volevo chiedere, a lungo andare, nonostante l'investimento di immagine che si fa come sul rugby, il fatto che, come diceva lei prima, il pallone non lo mettiamo mai giù e che comunque abbiamo una nazionale che fatica sempre a fare il salto di qualità, non può comunque poi portare a un distaccamento di tutto questo movimento di immagine e quindi far ripiombare il rugby in un baratro, diciamo, di regionalismo. E se mi concede un secondo, volevo semplicemente chiederle cosa ne pensa, sempre a riguardo di questo, quindi dell'investimento in marketing, dell'operazione fatta da Dolce & Gabbana sulla squadra di Milano che parteciperà alle World Series of Boxing. Grazie. Marketing, insomma, le sponsorizzazioni, gli abbinamenti, gli accostamenti mi sembrano discorsi molto diversi, mi sembra una cosa, una logica del tutto storica. Il marketing non è il diavolo in assoluto, non è il diavolo certamente, va tenuto, come dire, sempre questo equilibrio per le corna ma salvaguardato, sì, quel difficilissimo e fragile equilibrio che un evento sportivo ha una sua rilevanza per essere uno sportivo, poi creare intorno un ambiente migliore. L'importante è che questi due piani rimangano più o, certo, meno sullo stesso piano. No, poi quanto al resto, appunto, non è il demonio. I soldi, i quattrini servono per fare lo sport ad alto livello, dunque benvengano degli investitori che si scelgono il bacino di utenza o lo sport che gli è più simpatico, come ha fatto Armani, come ha fatto Benetton facendo cose, esatto, straordinarie, ma benvengano. La bravura è da parte dei dirigenti che possano sfruttare nel modo migliore possibile le disponibilità economiche per creare l'ambiente migliore per far sì che lo sport si consolidi, diventi patrimonio comune e magari diventi nel futuro una grande opportunità. Vincenzo, buonasera. Buonasera a tutti. Senta, io volevo iniziare, se mi permette, una piccolissima critica. Sì. Allora, io ascolto, non spessissimo, però diciamo sometimes, sì, questo programma, e sono diciamo un pochettino afflitto dal fatto che si parli tantissimo di calcio. Ora, ovviamente, essendo italiano, anch'io ho una squadra preferita, sì, eccetera, eccetera. Però veramente non capisco il motivo per il quale ci sia una concentrazione così alta e una sorta addirittura a volte diventa gossip piuttosto che non lo so che altro su questo calcio, visto e considerato come poi si comportano i tifosi, quelli che in realtà allo stadio ci vanno tutte le domeniche o tutte le trasferte, sì, eccetera. Ma guardi, non lo so, per la verità oggi noi il calcio l'abbiamo menzionato abbastanza di sfuggita, anzi non abbiamo proprio parlato, stiamo per farlo adesso negli ultimi 4 minuti di questo programma, mi pare, no? O no? No, infatti oggi è stata una puntata assolutamente bellissima proprio perché, sì, si è parlato di questo, di quell'altro sport, veramente poi soddisfatto. Andrea Zozzi ormai sono tre salti, io spero, per me se venisse tutte le volte sarei solo felice, purtroppo non è possibile. Però insomma mi pare che riusciamo a girare abbastanza, no? Ma vorresti girare di più? L'obiettivo è, Andrea, quello di provare, ripeto, noi in Italia il calcio è una religione, sì, ci si adegua. Quando si entra nel mondo dei giornali, della radio, si capisce anche che quello che smuove il calcio non smuove niente altro. Uno prova poi a trovare qualche occasione per parlare di altri sport, però è comunque un po' più impegnativo, un po' più faticoso. Io lo faccio con molto piacere perché sono di quel mondo, sì, sì, e quindi mi fa piacere. Tu mi dai questa opportunità, poi se in molti la pensano così, ma io lo facciamo anche di più. Ma certo, ma volentierissimo. Senti, a proposito di altri sport... Ronaldinho che fa tardi, e lo vedi. Ha fatto tardi? Sì, sai che l'ha beccato 2 di notte davanti al ristorante, Allegri, non lo sapevo, non è il comportamento ideale per lo sportivo professionista. Fammi tornare su una cosa, non ricordo bene, durante l'estate venne fuori una notizia in cui Balotelli venne criticato perché alla sera giocando con gli amici aveva una pistola finta. Sì, sì. Allora, tra le tante cose che Balotelli fa che io non considero essere particolarmente seri o intelligenti, sì, questa cosa qui mi aveva colpito moltissimo perché a me piacerebbe moltissimo giocare con i miei amici facendo finta, quindi mi sembrava una cosa normalissima di un ragazzo che ha 20 anni e che però per il ruolo che occupa, per l'attenzione a cui è rivolta e anche per una sorta di operazione, cioè abitudini a buttare addosso a Balotelli un sacco di problematiche, anche questo che era secondo me un gioco ma era divertente, era diventato un gioco da bambini, è diventato un affare di Stato. E allora Cammafare, gioca Ronaldinho, Giovanni Capuano, o va in panchina o neanche quella? Va in panchina perché gioca Robinho con Ibrahimovic e gioca Seedorf tre quarti, del resto Allegri ha detto chiaramente che non giocherà mai più con i quattro davanti se non partite particolari in casa, Milan, Fiorentina non lo è, e quindi Ronaldinho va in panchina, gioca il terzetto davanti che più gli ha dato garanzia in queste settimane, quindi Seedorf, Robinho, Ibrahimovic, e ti segnalo anche che dietro gioca Bonera, laterale di destro e non Antonini, Zambrotta va a sinistra, Nesta, Thiago Silva sono i due centrali e la linea dei tre a metà campo e la linea dei tre mediani, Gattuso, Ambrosini, Flamini come nel derby. Invece l'Inter ne ha 11 da mettere in campo o no? L'Inter ne ha 12, deve sceglierne 11 e c'è ancora un dubbio che è legato a Cambiasso o no dal primo minuto. Noi lo diamo informazione dall'inizio perché è l'unico modo per avere una squadra equilibrata, quindi con Santon e Capitan Zanetti laterali in difesa, Stankovic e Cambiasso mediani e davanti Biabiani, Snyder, Pandev ed Eto'o. Oggi però Benitez ha detto che Cambiasso è pronto ma non ha il ritmo partita, quindi in realtà deciderà solo all'ultimo se rischiarlo, perché farlo giocare dal primo minuto è un rischio. Se non dovesse farcela, Zanetti sale a metà campo, Cordoba fa il laterale a destra e Materazzi, che è il dodicesimo, giocherebbe centrale e con una panchina composta tutta da Primavera. E invece, a proposito di rischi che non vuole correre, Del Neri, che mi sembra che Krasic non abbia intenzione di spenderlo domani a Genova. No, Krasic è convocato ma a par di capire non partirà dal primo minuto, al suo posto giocherà Lanzafame. Del resto Del Neri ha detto che da qui a Natale è ancora 6 partite e non c'è davvero caso di rischiarlo. In difesa rientra Motta a destra con Sorensen che scala in panchina, anche se pure per Motta in realtà si vede come si sveglia domani mattina, perché ha un affaticamento muscolare, non sta benissimo, e allo stesso modo Del Neri, che ha problemi di infortuni abbastanza simili a quelli di Benitez, non vuole rischiare. Davanti giocano Iaquinta e Quagliarella, in mezzo a centrocampo rientrano Felipe Meli e Aquilani dal primo minuto. L'unica preoccupazione in realtà davanti che ha Del Neri, o l'ha detto oggi, è che Quagliarella non può giocare l'Europa League perché non è schierabile, quindi in realtà lui ha soltanto 2 attaccanti, Iaquinta Del Piero per l'Europa, certo, che è tutta in salita e deve risolversi nelle prossime 3 settimane. Grazie, grazie a Giovanni Capuano. Dunque, hai visto, abbiamo parlato anche di calcio. Andrea, questa è casa tua, quindi inutile che te lo dica, torna quando vuoi. A prestissimo, ciao a tutti. Grazie Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Ah, importante, domani, da domani ed ogni domenica ci sentiremo mezz'ora prima, dalle 16.30 fino alle 19, quindi avremo modo di vivere insieme la fine delle partite di Serie A. Vi aspetto domani, 16.30, non mancate.